nothing left to reconstruct. Faceless brains with no commitment. Birds chirping senselessly in the ignorant dawn. The sky produces sons like welfare mothers. No meaning, just one after another. Crack with disillusion. I cannot think of why this shouldn't be near the end of the line for me. The misuse of fate, destiny, chance defiled. Every discarded t-shirt a symbol of hell to pay. Why me? That's what they all say as they crumble, feeling worthless at age 13 times 2. Deaf and dumb, the world's been struck by hit and run. Sun shining brightly where there used to be a moon, so what? Life is living towards death, piece by piece, approaching the living end. I think it's all relative, but I'm not sure of the significance of discovering that life is cheap. My clothes are closing in on me. Tighter and more difficulty breathing. I want to be like those people who think the sky crashes down when they die, but what the heck? Thank you. come dire che è un lavoro più che eccezionale questo di Kejaino insieme a Jim O'Rourke e Oren Ambarci, una partenza mozzafiato e un finale di quelli da cardiopalma. Non si capisce quanto si possa veramente salire musicalmente oltre questo gemito, questo urlo quasi cosmico, tra l'altro fatto anche in una maniera quasi classica, una forma di power trio, quella di Kejaino insieme a O'Rourke e Oren Ambarci, ovvero batteria, chitarra e basso, forse anche così ricordando così vecchie formazioni power trio, le storiche tipo i Cream, no? Però insomma, pensare che si riesca a arrivare veramente a questi livelli di urlo ultrasonico è veramente incredibile, soprattutto pensando che Kejaino anche sorpassato i 60, eppure di fermarsi non ne vuole proprio sapere mezza, anzi continua. E come, tra l'altro, abbiamo anche messo qualche settimana fa con Eliseo Scarpa anche Fusiscisma, vabbè, insomma, come diavolo si chiama il progetto di Kejaino, sembra un po' difficile, come dire, approntare un buon giapponese da queste parti. Il disco ascoltato era questo splendido Imi Kuzushi, questo l'ho scritto bene, quindi riesco anche a dirlo più o meno decentemente, un rumore che quindi nella prima parte andava a trovare forme tra sound art, para improvvisazione jazzistica e forme di industrial decisamente brutente nel portarci appunto in suoni cupi e decisamente profondi. Mi sto riferendo chiaramente alla chiusura e a Fatrix insieme a Monte Casazza, storico personaggio dell'industrial, prima dicevo conosciuto perché ha inventato proprio il termine industrial music, quando Throbbing Gristle gli chiedevano come chiamare questa musica, se potesse avere un nome, ma soprattutto l'etichetta. Lui se ne uscì appunto con Industrial, e da lì poi anche il logo poi che è diventato storico, con Fatrix, gruppo americano, e con il disco ascoltato, una parte insomma di un lavoro storico tra l'81 e l'82, California Babylon. Si va a toccare anche quello che è il luogo delle performance, delle musiche rumoriste, quindi anche tutto, sia l'ingegneria folle, pazzesca che c'era in termini di costruzione scenica tra robot autocostruiti, macchine che diventavano oggetti scenici in maniera paradossale. Se pensiamo poi che Fatrix e Monte Casazza collaborassero anche con Survival Research, e quindi tutto quel mondo cyber industrial che portava insomma le estreme conseguenze, lo show meccanico, questa meccanica tremenda, mortale, ma anche veramente paradossalmente violenta e quindi anche, se vogliamo, anche felice negli esiti musicali e nelle sperimentazioni. Forse per alcuni aspetti sia Kejaino, che poi ha attraversato quel periodo in maniera particolare in Giappone, O'Rourke come rimando e Ambarci che è il più giovane dei tre, insomma, intravedono anche loro forse quello che fu insomma, e soprattutto quell'attitudine furiosa, veramente infinitamente alla ricerca del muro sonoro, di questo Big Bang quasi appunto rumorista, questo spostamento progressivo del rumore fino al white noise, in questo caso veramente magistrale, è come lo facessero con strumenti classici, assolutamente rock. E tra l'altro, pensando appunto che Jim O'Rourke proviene da una delle formazioni importanti di quel suono rumorista, quel particolarissimo percorso iniziato con Illusion of Safety, formazione che alla fine degli anni 80 faceva questo suono post-industriale pre-isolazionista, che ha fatto veramente scuola sia per quanto riguarda proprio i primissimi lavori di O'Rourke come solista, prendendo appunto da altri membri della formazione del progetto Illusion of Safety, ma se pensiamo insomma a personaggi come a Thomas Conner, che dopo troveremo, a tutto quell'ambito di rumore imploso che va appunto a cercare un'internità dentro un suono che più che uscire va dentro, appunto in questo senso imploso. Illusion of Safety iniziavano alla fine degli anni 80, questo disco però è del 92, una delle prime registrazioni appunto con il giovanissimo all'epoca Jim O'Rourke. L'andiamo appunto a trattare dentro questi sostanziali spostamenti progressivi del rumore, Illusion of Safety appunto da Probe, dopo sentiremo appunto Thomas Conner con l'ultimo disco. Where's my we chain? Have magic fingers. We're magic some? People. Are you gonna get me one? Oh, can I have 50 cents? I can get two more. Wait. Okay, no, okay. Not my money. Okay. Later, guys. Thank you. lavoro di grande intensità, questo di Thomas Conner, quest'ultimo disco notevolissimo uscito nel 2012, e immediatamente insomma l'allineamento così voluto questa sera 451 dentro spostamenti progressivi del rumore chiaramente ci portavano a collegare Illusion of Safety e Thomas Conner. Tra l'altro hanno anche fatto qualche lavoro insieme, esiste una collaborazione anche piuttosto notevole, ma soprattutto come ricerca del suono rumore, e c'è molta similarità nel lavorare su questo suono post-industrial, tra questo rumore imploso, una sorta di anti-ambient o no ambient, e queste esplosioni che sembrano provenire dallo spazio più profondo, forse anche con un riecheggiamento visivo di quello che può essere i primi secondi di Blade Runner, quando ci sono proprio queste esplosioni, c'è anche un'esplosione proprio visiva, in questo caso appunto il suono va quasi a esplodere, va quasi a toccare punti di non ascoltabilità, nel senso che l'impianto deve essere tale da supportare dei sub bassi veramente molto molto molto pesanti, che fanno di questo viaggio di Thomas Conner una delle tante astrazioni, ma quelle astrazioni che ci portano appunto molto lontano con Conner, proprio dentro questo piccolissimo che si sviluppa e poi sembra quasi fuoriuscire a dare appunto questa immagine potente e violenta anche dell'esplosione, della piccola grande esplosione. Diversamente da Illusion of Safety e da Thomas Conner, come tra l'altro anche da Cajaino con i suoi Fuzzy Tsusha, che invece abbiamo ascoltato insieme a Jim O'Rourke, così mi sono anche corretto rispetto a prima, e ora non barci, ma anche rispetto insomma alla prima parte di 451 con l'Escalade, Dilloway, Fatrix e Casazza. Beh, Carter, Tutti Void, così è il titolo della ragion sociale, che in realtà è Chris Carter, Così fan tutti, e Nick Void, ovvero due storici Throbbing Gristle, due storici Chris and Cosey, e una di quelle figure che potrebbero diventare anche storiche, visto che di Factory Floor si sta parlando tanto in questi giorni. Tra l'altro anche in maniera piuttosto così curiosa, visto che Factory Floor non hanno fatto uscire ancora un lavoro a lunga gittata, soltanto degli EP, molte collaborazioni anche con un altro storico del rumore come Mark Stewart, messo tra l'altro la scorsa settimana proprio qua a 451 su le nostre traslazioni disco Dirty Dancing, e Carter, Tutti Void fanno uscire questo transverse registrato dal vivo in presa diretta, come tra l'altro anche per Cajaino, Jim O'Rourke e Oren Ambarci, al Mute Festival, non che Eino, O'Rourke e Ambarci l'abbiano fatto al Mute Festival, però la presa diretta è sicuramente di tutti e due i dischi. Molto interessante, perché Carter e tutti riprendono un po' anche le vecchie ritmiche oscure, quella cold wave creata proprio da loro, quella la minimal synth, come si vuol chiamare anche ultimamente, e la rinverdiscono con così la genialità rumorista di Nick Void, appunto di Factory Floor. Fanno un disco che potrebbe ricordare tanto gli anni 80 come anche gli anni zero del dubstep, e anche tanto poi del rumore astrattizzato, dentro però una ritmica anche piuttosto ferrea, piuttosto ingombrante, anche volutamente tale, anche bella proprio per questo viaggio appunto sonoro che ci fanno fare dentro il mondo della vibrazione. E d'altronde grandi maestri appunto come Chris Carter e Cozy Fine tutti incontrano giovani generazioni come Factory Floor proprio su questo terreno di questa visione e sonorizzazione della ritmica come fonte di rumore o viceversa, utilizzandolo insomma in chiave rumorista. Transverso quindi da Carter Tutti e Void. Punk ante litteram può suonare un oscillatore nel 1974, appunto poco prima di formare Buzzcock. Sembra incredibile, in realtà Pete Shelley giovanissimo recupera questo oscillatore, siamo infatti nel 74, e ancora insomma dai Buzzcock da lì a venire insomma ce ne sarebbe stato di tempo, soprattutto insomma ci sarebbe stato un grande passaggio a quello appunto della nascita del punk. E Pete Shelley così costruiva un suono assolutamente lancinante, scollegato da qualsiasi ambito elettronico dell'epoca. Sì, c'erano esperimenti, tra l'altro anche Bruce Gilbert, altro storico poi punk, anche lui con i Wire lavorava sugli oscillatori proprio in quegli anni. Forse anche in questo senso bisognerebbe forse riscrivere una sorta di genia legata al punk che per tanti versi non si è mai avverato, forse si è avverata più nel post-punk, come scrive Simon Reynolds, ovvero quella sperimentazione quasi urgente che molti ragazzi intorno alla metà degli anni 70 in Inghilterra e non solo sentivano rispetto a non soltanto alle strumentazioni classiche trattate o bistrattate, ma anche alle strumentazioni legate all'avanguardia. E così appunto un suono assolutamente parabolico come quello di Pete Shelley in Skin Yen arriva appunto a essere così un disco quasi in previsione di quello che farà Pete Shelley dopo la prima ondata punk. Skin Yen esce nel 1980, proprio quando Pete Shelley pensa che debba poi uscire con Open come Homo Sapien, che sarà disco di sintesi elettronica, di synth pop anche piuttosto interessante. Un disco che vive anche di umori sperimentali, anticipa anche molto di quello che sarà poi il techno pop, quello più illuminato, quello ancora più visionario, quello che nell'82 riuscirà addirittura a prendere anche le classifiche, come stavamo dicendo prima, un mainstream che ancora esisteva in termini di musicalità, in termini ancora di quasi qualcosa di vitale, seppur insomma con l'ombra poi dei più invece anni 80 ritrivi, quelli appunto che ci porteranno fino ai nostri giorni e al dominio quindi della commercializzazione dei prodotti a tavolino. Ma quando appunto fece uscire questo splendido lavoro Pete Shelley, che proveniva appunto da una sperimentazione sua del 1974, era proprio quel periodo eccezionale in cui le tecnologie finalmente potevano essere utilizzate anche appunto dai punk, dagli ex punk o dai post punk, da chi insomma voleva e sentiva anche in maniera piuttosto violenta l'urgenza appunto di esprimere un proprio linguaggio, un linguaggio che tante volte è stato originale e originario, anche nel senso che ha saputo poi dare gambe a molte sperimentazioni. In questo senso abbiamo voluto unire appunto Chris Carter, Cose Fan Tutti, e Nick Void proprio con Pete Shelley, proprio andando a rievocare i periodi storici sia di Throbbing Gristle che di Chris and Cose, quel periodo insomma che per tanti versi insomma sta tornando anche dentro le corde, dentro le attitudini di molti musicisti che insomma stanno sperimentando, o non musicisti forse è il caso di dire, come quello anche di John Wiese, o John Wiese anzi per dirla alla tedesca, visto che il nome viene da lì, anche se il nostro è americano, anche egli è un ultra noiser proveniente però dalla West Coast rispetto all'East Coast invece di Aaron Dilloway. E John Wiese, trattiamo la tedesca, fa uscire qualche mese fa Seven Hands, disco decisamente interessante, anche lontano dai rumorismi concettuali o ultra veramente primitivi di Wiese, un lavoro molto più calcolato, forse anche vicino a certe cose sia di Pete Shelley, che stiamo sentendo ad esempio in sottofondo, quindi un suono frequenziale però utilizzato in maniera quasi rocambolesca, appunto quasi punk, e poi invece un concretismo che rimanda tanto agli storici concretisti quanto a certi Nas Witund. E ci andiamo a ascoltare appunto John Wiese in chiusura della trasmissione, questo piccolo grande gioiello uscito tra il 2011 e 2012. Io vi saluto qua, vi rimando a domenica prossima probabilmente in compagnia di Eliseo Scarpa, vi rimando al blog 451 frammentisonori.noblogs.org curato da Lorenzo Albano. Ringrazio anche chi mi ha fatto compagnia questa sera, sia fisicamente che invece in maniera immateriale via etere, grazie, e vi rimando appunto a domenica prossima, vi lascio con John Wiese.